partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dove la tira sempre quando è in quella posizione lì. Tagliamba dentro, il Caduri sfrutta il movimento, ecco il suggerimento per Damiano che lo mette in mezzo. Fabio Quagliarella, 2-1. Out here in the fields, I fought for my meals, I get my back into quattro anni. Credo che abbiamo costruito dal nulla una torta importante per il futuro di questa società, mancava la ciliegina per concludere questo quadriennio. Se penso ai derby precedenti e come li abbiamo persi, direi che è quello che ci spettava di diritto. Posso solamente dire che questi incidenti andrebbero evitati. Io sono molto dispiaciuto perché credo che oggi all'interno del rettangolo di gioco sia stata una bella partita, leale, maschia, tecnicamente con dei bei gesti tecnici, e questo credo che alla fine dovrebbe essere importante per tutti gli sportivi, per tutti i tifosi. Purtroppo in Italia siamo ancora molto indietro e fino a che non, chi di dovere non prenderà delle posizioni continueranno a fare così. A me dispiace molto perché soprattutto ne va oltre che del calcio, del paese Italia. Un linguaggio assolutamente contro di noi, non valutando quelli che sono invece i meriti sportivi, e quindi è normale che quella conseguenza della gente sia questa. La speranza è che non si arrivi veramente a un fatto grave di cui poi tutti noi dovremo pentirci. Tratta di capire chi è il chi di dovere cui fa riferimento Allegri. Vorrei parlare, e dico subito che lo farò, di una delle poche partite di calcio interessanti rimaste in questo inutile finale di stagione italiano, cioè il derby che ieri la Juventus il Torino è tornato a vincere dopo 20 anni contro la Juventus, che graffiata in orgoglio non è la classifica, vincerà il campionato al prossimo giro, quello dopo ancora. So che finiremo per discutere di altro su cui non ho in realtà molto da dire, perché continuo a pensare che la responsabilità di chi commette un reato o un illecito sia individuale e non diffusa, e nemmeno di Dennis, peraltro, che verrà si è fatto giustizia da solo negli spogliatoi e verrà, come normale, denunciato da Tonelli. C'è una notizia importante che è stata pubblicata dal sito di Repubblica, l'avete sentita anche nel giornale radio, indagini in corso, quindi è bene prenderne atto. È possibile che la bomba carta che ha ferito i tifosi del Toro ieri al 10 persone in modo lieve per fortuna ieri all'Olimpico non sia stata lanciata dai tifosi della Juventus, ma sia stata confezionata sul posto dagli stessi tifosi granata, poi rimasti feriti, qualcosa è andato storto e questa bomba, che chiaramente non doveva essere lì, è esplosa. È un'ipotesi che emerge dai filmati visionati dalla polizia e la relazione è stata consegnata al pubblico ministero Andrea Padalino, che ha aperto un'inchiesta. Questi i fatti, questa la ricostruzione dei fatti. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, come va? Benissimo, anche perché c'è Maurizio Crosetti pure. Oh, il ciao Cross. Ciao. Eccolo qua, buona giornata a tutti e soprattutto agli ascoltatori, anche a voi, anche a voi due. Senti, ma notizia pubblicata appunto dal sito del tuo giornale, sposta i termini della questione, non per quello che succederà, per le conseguenze sportive nei confronti della curva della Juventus, non sposta tantissimo i termini del problema, secondo me. No, perché il problema non è chi è il buono o chi è il cattivo, il problema è che, lo ripetiamo fino alla noia ogni volta, certi ordigni, certi striscioni infamanti, certi oggetti come i coltelli, insomma tutto ciò che può far male non può, non deve entrare, soprattutto non può entrare un arsenale in curva. Poi ci sono ipotesi fantasiose che addirittura alcuni possono montare questo arsenale sul posto, non è che comprano le bombe all'IKEA, forse sì, ma insomma sembrerebbe in questo epilogo anche fantozziano, se non fosse drammatico e terribile, no? dell'ultra che si fa scoppiare la bomba da solo, come nelle vignette delle Sturmtruppen, ve le ricordate, sì, di Bombi, sì, no? Sì, sì, c'era il soldato tedesco Maldes che si faceva scoppiare in mano la bomba, ma c'è ben poco da ridere. Il discorso è che in alcuni stadi il filtraggio non esiste per paura di peggiorare la situazione, per prolungare troppo la perquisizione, insomma, degli ultra che entrano in gruppo, non li si guarda quasi. Allora cominciamo da lì, credo, no? Al di là della retorica e dei principi sui massimi sistemi. Fai l'ultra nella vita, non per questo sei un delinquente, per carità, però sei, appartieni a un gruppo organizzato, allora per legge vai allo stadio 4 ore prima, io ti perquisisco, li perquisisco uno per uno, lo so che costa soldi alla polizia, allo Stato, ma allora quei soldi li pagano le società che hanno, in proporzione alla cattiveria dei loro ultra e alle punizioni che i loro ultra procurano, no? Alle società che spesso non ne possono nulla. Allora ci mettiamo 4 ore a farli entrare tutti, mettiamoci 4 ore, ma pure 5. Sì, anche il giorno però, prima, non è un problema. Però uno per uno non esiste che uno metta la bomba nella manica del giubbotto, se ne sono sentiti di tutti i colori, oppure nelle mutande, nelle mutande delle donne, sì, ma sì, veramente sì, qui sì. Si scivola nella comica, no? Lo Stato di diritto diventa, come spesso, lo stato farsa, e questo sì, non è accettabile. Continuo però a pensare che comunque la responsabilità per un reato sia individuale, non collettiva, e non diffusa, e non diffusa, e non si debba rubricare o derubricare tutto quanto sotto il fatto che è un ultra. Se vado per strada e tiro un sasso a una macchina, la colpa è mia, non è della, no, è vero, della Juventus, di chi ha scritto una cosa, di ma perché no, quella è una scelta colossale. No, diciamo che la responsabilità è sempre individuale, qualche volta si esercita in gruppo, sì. E allora diventa branco, diventa responsabilità di gruppo, certamente non collettiva, a meno che il gruppo non sia piuttosto composto da tanta gente, però voglio dire, in un caso come nell'altro si deve intervenire. Questo Stato ha, io credo si possa dire, ormai sconfitto il terrorismo, comunque gli anni di piombo, il terrorismo rosso e il terrorismo nero, e non siamo riusciti ancora a fermare gli ultra, cioè ci arrendiamo, abbiamo bisogno che un tribunale internazionale dichiari che in una caserma italiana si verificarono episodi di tortura nei confronti di persone che erano lì peraltro, e però diciamo, siamo stati capaci di torturare, così non dico io naturalmente, come dice Crozza, così dico io, non ci credo, siamo stati capaci di torturare delle persone in una caserma, ma non siamo capaci, non dico di torturare, ci mancherebbe altro, ma di perquisire centinaia o migliaia di persone in fila, sapendo che probabilmente lì dentro c'è qualcuno, c'è qualche malintenzionato. Pierluigi, sei anche tu per la perquisizione a tappeto? Sì, io sono per la perquisizione a tappeto, ma il punto fondamentale è che nel momento nel quale tu perquisisci e trovi uno con una bomba carta, devi arrestarlo. Cioè, certo, è sempre il secondo elemento. A me sembra sempre, io sono per cultura contrario alla repressione, nel senso che ho un background progressista, credo nell'educazione delle persone, mi piace pensare, non mi piace lo Stato di polizia, lo Stato che reprime mi fa schifo, però voglio dire, quello che secondo me manca qui molto banalmente è il passo 2. Cioè adesso queste persone verranno identificate, e che cosa ci sarà? Un DASPO forse? Non lo so, cioè mi sembra che manchi questo secondo elemento, mi sembra che manchi la certezza della pena, punto. Perché io sono abbastanza convinto del fatto che poi se evidentemente con un comportamento di quel tipo lì, anche semplicemente il fatto di portare una bomba carta dentro uno stadio, se ci fosse una sanzione vera, e poi alla fine uno vediamo pensa, che rischia, se ci fosse certo. Anche molto banalmente il danno civile. Cioè se le società in qualche modo se si costituissero parte civile e ci fosse il danno d'immagine, il danno fisico allo stadio che hai distrutto, forse magari uno ci pensa. A me sembra che sia questo l'elemento, ripeto, adesso arriverà la sanzione, magari chiuderanno una curva piuttosto che un'altra, non serve a niente. Adesso rimaniamo nell'ipotesi che possa essere sanzionata la curva allo stadio della Juve, quelli sono comportamenti fatti in trasferta. Un tifoso che ieri non era allo stadio col biglietto della trasferta, cosa c'entra? Perché dobbiamo punire quello? Perché così come il famoso discorso che ho fatto per lo striscione della Roma, perché bisognava punire un tifoso della Roma che quel giorno non c'era, magari era abbonato, aveva pagato l'abbonamento e chiudere lo stadio? A che serve? Non serve a niente, serve andare con un lavoro di intelligence, che è quello che è stato fatto in Inghilterra da una signora che si chiama Margaret Thatcher. A un certo punto la situazione è diventata insostenibile, hanno infiltrato dei poliziotti all'interno dei gruppi, nel giro di 5 anni, anche attraverso una ricostruzione degli stadi con dei modelli più moderni, con telecamera a circuito chiuso, con tutti i posti seduti, che forse un po' di atmosfera l'hanno pure tolta, ma alla fine è il male minore, ma hanno risolto il problema, appunto. Hanno semplicemente costruito degli stadi che sono normali. A me 2015. Lo dico sinceramente, di sapere se quello che ha fabbricato la bomba carta avesse la sciarpetta del Torino o della Juve, francamente, esatto, interessa importa, poco, importa pochino, perché sì. Io so non che sposta il termine ci problema. Sono decine, centinaia di persone che sono in tutte le tifoserie d'Italia, non ce n'è credo nessuna immune, che possono fare cose di questo tipo. E poi c'è la stragrande maggioranza di persone, stavo raccontando qui ai miei colleghi, io ieri ho parcheggiato nel parcheggio stampa, che è quello nel controviale arrivando allo stadio, e ho fatto le foto, c'era una marea di bambini, tifosi del Torino, pochi minuti prima che passasse il pullman, sembrava un clima tranquillo, sereno, foto, insomma, sembrava perfino qualcosa di normale. Sembrava qualcosa di normale, poi c'erano le forze dell'ordine, eccetera. Certo, e poi certo. Vedi quelle immagini del pullman e poi vedi la bomba carta. Ma di che stiamo parlando? Allora qui, siccome da ieri mi arrivano messaggi su Twitter, domani parlerete di questa cosa, oppure fa meno notizia perché c'entra questa squadra qui, dillo che la bomba l'hanno messa questi, parla di questo. Finché le persone continuano oggi, le persone per bene, oggi continuano a dividersi, a farsi condizionare dall'appartenenza. Se i delinquenti avessero la sciarpetta di una squadra piuttosto che dell'altra, non andremo da nessuna parte. Il problema lo si risolve tutti insieme. Vogliamo che lo stadio torni a essere un posto civile? Sì o no? Questa è la domanda. E comunque sia, noi ce lo possiamo raccontare. I presidenti, sai come la penso? Secondo me sono deboli. Sono deboli, però mi piacerebbe prendersene una sì, posizione un po' più definita. Detto questo, poi c'è il governo, c'è la polizia, ci sono i magistrati, ci sono le istituzioni. Questo è un problema che sta diventando un problema endemico nel nostro paese e va risolto con un'attenzione particolare. Se lo si vuole risolvere, lo si risolve, altrimenti rimarrà lì e probabilmente sarà un modo per tanti giovani italiani per esprimere la loro conflittualità, che per tanti buoni motivi hanno anche pienamente diritto di avere, perché i problemi sono tanti del paese, e allora invece di andare in piazza a manifestare su problemi più seri vanno allo stadio e si fanno la guerra fra di loro, e mi sembra però un delirio, ecco. Senti, fermiamoci un attimo per il traffico. Maurizio Crosetti, Pierluigi Pardo, state lì, 800 24 00 24, se volete intervenire. Voglio parlare anche della partita e non solo di quello che è successo intorno a questa partita. Lo facciamo subito dopo le informazioni, perché in viaggio tutti convocati. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta tutti convocati. Maurizio Crosetti, la Juve, dicevo, graffiata nell'onore sportivo ieri, perdendo una partita che non poteva perdere da 20 anni. Bello così, mi viene voglia di applaudire forte il Torino. Mi domando se ci sia qualcos'altro oltre a graffi nell'onore per la Juventus, sportivi naturalmente. Ma intanto, per chiudere il discorso di prima, è anche doveroso dire che ieri sera la Juventus ha emesso peraltro un comunicato in cui si è dissociata da queste azioni, per cui non è stata una giornata con il solito silenzio da parte di un club, al di là che poi, appunto, come abbiamo detto, le responsabilità individuali o di gruppo verranno definite o anche modificate all'inchiesta, però questo è giusto dirlo, come è giusto dire che il Beppe Marotta forse invece era stato un po' sfocato, un po' fuori asse nel giudicare la stampa come dire complice, o in qualche maniera un po', come dire, non un mandante, ma insomma un possibile detonatore degli animi. Per carità, non difendo la mia categoria, non difendo nessuna categoria, perché mi piacciono le persone, non le categorie, e so bene che le persone all'interno di ogni categoria ne fanno di tutte, di ogni, come sì. Si dice, compresi nei giornalisti. Però sicuramente quelli che hanno costruito la bomba non hanno letto ieri mattina nessun pezzo per dire adesso mi incattivisco e faccio saltare la bomba. Se l'hanno letto non c'è più bisogno del questore, ma di un bravo dottore, cosa che peraltro secondo me servirebbe, ma non per fare una battuta, perché molti disagi di queste persone andrebbero riconosciuti, scovati e forse curati nella loro profondità e nella loro vita. Però vabbè, insomma, non facciamo Paolo Crepè, facciamo tutti convocati. E la Juve ferita nell'onore, ma infastidita, direi, più che altro da un risultato che non fa piacere, perché perdere non fa piacere, prendere 3 pali nemmeno, essere distratti, un po' molli in alcuni giocatori nemmeno, perché comunque il Real si avvicina, lo scudetto anche. la notte dello scudetto probabilmente non sarà mercoledì, perché la Lazio non dovrebbe, qui per riuscirci, battere il Parma, e la Juve dovrebbe battere la Fiorentina. È probabile che lo scudetto della Juve se lo prenderà proprio a pochi giorni dall'andata con il Real, sabato pomeriggio a Marassi. Probabile, ma anche questo non certo. E tra l'altro per Marassi, per la Sampdoria, tanto per non si proprio uscire dalle cose brutte, ha per adesso sospeso la vendita dei biglietti nel settore ospiti, quindi comunque sì. Il giorno dello scudetto potrebbe essere festeggiato o in uno stadio mezzo chiuso, tutto chiuso, o senza i tifosi in trasferta. Un'ulteriore aberrazione nel giorno in cui una tifoseria di 14 milioni di persone, non di 50 deficienti, meriterebbe, avrebbe anche il diritto di... Sì, adesso vediamo come vanno le indagini, ecco. Però Maurizio, vediamo quali sono gli sviluppi, perché questo è chiaro, le esposta... Le ultime notizie, certo, cambierebbero le prospettive. È gravissimo adesso se chiudessero, cioè cosa hanno fatto in fondo i tifosi no, della Juve? Si tratta di accertare, credo non possono essere presi provvedimenti. Volevo dire che l'epilogo del campionato, anche per quanto riguarda le tribune, può essere anomalo, come tutto, quasi tutto questo campionato è stato, tra settori aperti e chiusi e tra, abbiamo detto, anche un'evoluzione nella devianza degli ultra, perché insomma, sì, tra che vanno dei giocatori, insomma, ne abbiamo parlato tanto. Di sicuro sta cambiando in qualche modo anche la tipologia della violenza, non è solo una replica, secondo me è una mutazione quasi genetica, e in questi casi bisogna intervenire scientificamente. Pierluigi, tu che hai commentato la partita ieri a Torino, invece, tornando al campo o provandoci, hai visto qualche segnale preoccupante nella Juventus? Ma io ho visto una Juve che aveva, secondo me, voglia di vincere, ma il Torino ne aveva lievemente di più. Sembrava una partita, insomma, in qualche modo anche decisa dagli eventi. Ti posso raccontare, a proposito della bellezza del fair play, non me ne vorrà, uno scambio tra Bonucci e Padelli in zona mista, con Bonucci che fuori onda ha detto a Padelli: hai tolto il santino dalla porta, e Padelli che si è messo a ridere, perché in effetti i tre pali sono stati tantissimi. Questo anche per raccontare l'altro derby, quello più bello. Io ho sottolineato, a un certo punto c'è stato un abbraccio fra Pepe e Padelli che è stato bellissimo, su uno dei pali colpito dalla Juve, no? C'era Pepe che stava cercando di scalciare il pallone a pochi passi da Padelli, alla fine si sono praticamente abbracciati, perché poi ovviamente i calciatori sono questo, i tifosi veri sono questo, insomma, niente di visibile a quello che abbiamo visto purtroppo fuori. No, devo dire che, tornando un attimo al discorso di prima, in ogni caso sarà complicato, perché la magistratura ovviamente ha dei tempi lunghi, quindi sì, adesso possiamo avere dei primi exit poll su quello che è successo, ma non credo che la giustizia sportiva avrà dei tempi più veloci rispetto alla giustizia. Sì, però si tratta anche di capire esattamente cosa è successo, cioè non penso sia possibile prendere dei provvedimenti sulla base di una prima ricostruzione che potrebbe essere sbagliata, quindi è chiaramente un problema di difficile soluzione. Tornando all'aspetto tecnico, insomma, non mi sembra una Juve in crisi, sinceramente, mi sembra una Juve che sta gestendo le sue energie, che ha un appuntamento il 5 maggio importantissimo, che non è arrivato in campionato, che quasi da un certo punto di vista può scegliersi la data più adatta per la festa, forse la cosa migliore è Juve-Cagliari davanti al suo pubblico, non so come dirti. Mi sembra proprio che sia tutto tranquillo, tutto talmente sereno da questo punto di vista che dubbi non ce ne sono, no? Non la vedo in crisi fisica. Ieri ha fatto dei cambi, ha fatto turnover, sta gestendo la situazione come da filosofia di Allegri, che non ricerca, diciamo, i record, non ricerca il numero fino a se stesso, ma punta invece ad avere, e da tutte le ragioni del mondo, secondo me. Volevo chiedere un'ultima cosa a Maurizio Crosetti invece, degli schiaffoni volati negli spogliatoi di Bergamo. Insomma, io trovo si sia enfatizzata molto questa storia. Poi adesso giustamente Tonelli ha preso un pugno in faccia, vuole denunciare penalmente Denis, e ha tutti i diritti di farlo. È stato, guarda, se mi permetti posso forzare, molto peggiore la reazione di chi stava intorno e le parole di quelli che c'erano intorno. Ma sì, è una classifica difficile, nel senso che siamo tutti i punteggi sotto lo zero, sì. Quindi c'è da decidere se Davis prende meno 10 e chi stava intorno meno 11 o meno 9. Di sicuro la violenza, l'isteria, la provocazione che pretenderemmo fuori dallo stadio o fuori dal calcio, qualche volta, ahimè, abita addirittura dentro uno spogliatoio, dentro una squadra, dentro un atleta che tra l'altro deve avere veramente sbroccato di brutto. Perché io ricordo Denis quasi tutte le domeniche, tutte le partite a Bergamo con il suo figlio che cambia porta a seconda di dove attacca il papà, aspettando il gol e l'abbraccio. È una delle scene belle di questo campionato. Se mi avessero detto, guarda, Denis è quello che abbraccia il figlio, non quello che mena l'avversario negli spogliatoi mettendosi dietro Cigarini, facendo come la vecchia pubblicità di Follonari, che nessuno ricorderà, ma io ho 742 anni e invece me la ricordo, che c'era quello piccolino che camminava dietro l'ombra di quello grande, e noi bambini degli anni 60 ridevamo come matti, ci accontentavamo anche di poco. Ecco, e quindi che Denis si nasconda dietro Cigarini, faccia lo schiaffo, dia lo schiaffone anziché abbracciare suo figlio, non lo so, io penso che ieri veramente debba aver mangiato pesante questo qui, sì. Dopodiché se il Daspo lo chiediamo e le denunce le chiediamo sono possibili e giuste e doverose per qualunque atto di violenza delle persone, dei tifosi, dei giornali, di chiunque, beh, accidenti, un tesserato pure il doppio della pena gli darei, anche se tu dici si è enfatizzato, il tesserato non può da tutti i punti di vista, certo, ma e poi c'era pure suo figlio allo stadio, si vergognasse si vergognasse, ma il tesserato pagherà pesantemente quanto ha fatto, sì, dal punto di vista sportivo, non solo, piace perché nel raptus agonistico, però lì è qualcosa che va un po' oltre, no? Raptus agonistico, si dice che l'ha minacciato di morte, ho capito. No, è una violenza, ragazzi, questa è una violenza però privata. È violenza. No, però voglio dirti, cioè mettere adesso questo episodio, anche noi della stampa spesso, secondo me, facciamo mescoliamo dei piani. È chiaro che nel resoconto della giornata infernale di ieri, in più è successa questa cosa, uno l'aggiunge, no? Però secondo me è un po' tanto al chilo questa roba qui, nel senso che Denis ha compiuto un atto ignobile, una cosa che è successa bruttissima, che riguarda loro due, verrà denunciato, verrà squalificato, e questo è insomma quello che è successo, come la famosa cosa Materazzi-Cirillo di qualche anno fa, cioè rientra in un ambito di scazzottate fra uomini che per carità vanno stigmatizzate, ma sono completamente un'altra cosa, ecco, questo mi sembra indiscutibile, poi l'episodio è da condannare completamente, arriveranno le squalifiche, certamente l'immagine di Denis ne esce devastata, anche perché insomma... Certo, però non mi va di dire guardate come fanno niente, loro e poi non pigliate non ancora fuori. Cioè una cosa come quella potrebbe essere successa anche in Inghilterra, non è che con lo stadio che è perfetto dove non ci sono i tafferugli fuori dal campo, è una cosa di campo che nasce da una rissa fra due persone, come può succedere al bar, e che è meglio che non succeda, chiaramente c'è una responsabilità ulteriore perché stiamo parlando di un tesserato che dovrebbe dare il buon esempio, per cui onta assoluta. In questo caso Denis, però c'è abbastanza certezza della pena, perché sappiamo bene quello che andrà incontro Denis dal punto di vista sportivo, eccetera. Ha fatto una cazzata enorme e pagherà tutte le sue conseguenze, la punizione immagino che sarà dura, e direi che è finito qui l'episodio, non c'è molto altro da aggiungere, non c'è molto altro che possiamo dire o fare per migliorare il clima, ne succederà una fra 3 anni, ne succederà una fra 6 anni, ma sono situazioni estemporanee fra esseri umani che si trovano a litigare e a qualcuno gli parte l'embolo, il piede della frizione, in questo caso a Denis, che ha fatto una pessima figura e adesso ovviamente pagherà le conseguenze. Maurizio, ti ringrazio. Grazie a voi, ciao. Ciao Maurizio Crosetti. Pier, sta lì subito dopo la borsa, c'è Ruggero da Genova, David provincia di Venezia, eccetera eccetera, altri ospiti, 800 24 00 24 è il numero verde. Cose strepitole. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Allora, Pierluigi, andiamo più veloci con un paio di ascoltatori, poi abbiamo degli ospiti in attesa. Ruggero Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. E grazie per la convocazione. Un punto veloce perché tante cose vorrei dire in riferimento agli incidenti di ieri. È semplicemente una considerazione semplice, che quello che è successo ieri succede a Torino da sempre. Io ho frequentato la curva della Juve, sono nato a Torino, quindi queste cose qua negli anni 70 erano uguali, identiche, né più né meno. Volevo semplicemente dire che cambiando le generazioni il risultato è sempre lo stesso, comunque non è cambiato niente da quel lato lì. livello di... Ci piace così? Non è cambiato niente, forse allora era... No, chiedo, era peggio. Ci piace così? Cioè, dobbiamo dire allora che siccome succede da 40 anni, cioè, lo accettiamo? Ovviamente no. No, no, non Ruggero, lo so, no. Chiedo all'ascoltatore. Io sono sempre stato di quelli che la curva doveva stare a urlare più forte. Poi tutto quello che deve accadere deve accadere dentro lo stadio a livello di tifo. Fuori non dovrebbe succedere questo, ma il problema è che è viscerale proprio dentro, che qua a Torino i tifosi della Juve, del Toro, non riusciranno mai a fare quello che hanno fatto i milanisti e gli interisti, una sorta di fatto di non aggressione nel derby. Infatti lì non succede niente. Sì, però non possiamo dire dato che è così ci arrendiamo e sarà sempre così. No. e mettiamoci una pietra sopra, quindi non possiamo accettare la logica del così è sempre stato e così fan tutti e quindi andiamo avanti. Io saluto il presidente del Torino Urbano Cairo. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Saluto anche un suo tifoso, cioè Mario Giordano, direttore di TG4. Ciao Mario. Buongiorno, ciao a tutti, ciao presidente. Hai messo la bandiera Mario Giordano sul balcone? Sentite la voce? L'ho lasciata tutta su gridando Matteo e Fabio. Con le lacrime agli occhi, perché ho visto la partita con mio figlio che ha 20 anni e non pensava neanche possibile che il Toro vincesse un derby, perché non l'aveva mai visto. Sì. E quindi abbiamo concluso senza voce e con le lacrime agli occhi. C'è gente che va all'università e che non ha mai visto il Torino vincere, è giusto. E io raccontavo 3-2, raccontavo di Pulis e Graziani, però poi un conto sono i racconti, un conto è vivere la gioia che abbiamo vissuto ieri e che quest'anno non è l'unica, perché no, ne abbiamo vissute altre. Forse meglio di quella passata questa stagione, presidente. Sta assumendo contorni migliori rispetto addirittura a quella con buona pace di Cerce Immobile. Beh sì, è più ricca perché abbiamo avuto anche un percorso molto lungo e molto importante in Europa League con una vittoria poi storica come quella del San Mamés, in cui abbiamo prima italiana tra tutte a espugnare quello stadio, per cui benissimo lì. Poi comunque una vittoria con lo Zenit in casa che a momenti riusciamo a recuperare una partita sfortunatissima come l'andata a San Pietroburgo, e poi comunque un bel cammino, e poi anche in campionato insomma battuto il Napoli in casa giocando alla grandissima, ieri il derby che aspettavamo da tanto tempo, poi l'Inter in casa, insomma tante buone partite vinte e abbiamo anche qualcosa in più rispetto allo scorso anno, quindi siamo direi molto bene, siamo contenti. So che Mario Giordano... dobbiamo dare il colpo di reni finale, mancano 6 partite, sono importantissime. So che Mario Giordano deve prendere un aereo, quindi voglio chiederti solo se vuoi strappare una promessa al tuo presidente, o vuoi dire qualcosa al tuo presidente, o magari eri uno di quelli che lo contestavano all'inizio perché non aveva speso abbastanza. Dimmi la verità. Il presidente sa, e restano anche tracce, che l'ho sempre difeso anche nei momenti che sono stati un po' duri, perché ci ha dato una stabilità in questi anni grandissima. E quindi ovviamente il mondo del calcio è complicato, ci sono state delle fasi difficili, ci sono stati anche tanti errori commessi, ma chi non sbaglia scagli la prima pietra, e quindi gli dobbiamo solo dire grazie, oggi l'abbiamo sempre detto. Adesso Presidente, io non dico non vendere nessuno, io faccio un nome su tutti, perché secondo me è un simbolo, un segno di questo Torino. Comincia con la D. Secondo me, io l'ho sempre detto, chiunque, ma non Damian, perché per il tipo di giocatore che è, per il tipo di ragazzo che è, per quello che ha incarnato, secondo me una grande società come vuole essere, come sarà il Torino, a quel tipo di... Non ho piano, mi sono strappato le vesti l'anno scorso per Cerce Immobile, il presidente lo sa, certo, forse all'inizio ci aspettavamo qualcosa di più, ma Matteo Damian secondo me deve essere il cardine della squadra del futuro. Lo accontentiamo? Ma io ho detto già ieri che noi siamo nella condizione, visto che i nostri bilanci fortunatamente sono sani, non ci sono debiti, siamo nella condizione di non vendere nessuno addirittura, per cui volendo potremmo tenere tutti. Poi il tema vero è di avere dei giocatori che siano motivati come lo sono stati quest'anno e hanno dimostrato la motivazione e la crescita anche di mentalità, perché se si vincono partite come ieri o come a Bilbao è perché evidentemente ci si crede e non si ha paura di giocarle, ma anzi si ha voglia di giocarle e di vincerle. Però quello che conta è che i giocatori siano motivati al 101%, perché è come Mario Giordano, se gli dicessero di fare una cosa, lui che fa il direttore di quotidiani, che ha fatto il direttore di un quotidiano e poi direttore di giornali di televisione, di telegiornali, ovviamente gli chiedessero, gli offrissero una cosa speciale, tipo di andare a fare, che ne so, il direttore della CBS, e non so se lui non parla l'inglese, ma insomma comunque non so cosa direbbe. Quindi voglio dire, dobbiamo stare attenti che se un giocatore rimane motivato, allora lo tieni sempre, e io sono il primo a farlo, anche perché, ripeto, non dobbiamo vendere nessuno e non c'è bisogno di vendere nessuno. Presidente, la CBS è il Barcellona, mi stai dicendo? No, non lo so chi sia, perché qui abbiamo la CBS, la ABC, la NBC, Fox, eccetera eccetera. Però insomma, voglio dire, se invece il nostro giocatore è felice di rimanere, e io sono disponibilissimo anche a ripensare con lui e vedere con lui tutto quello che serve, anche da un punto di vista economico, se c'è questo. Sì, però problema. Deve essere motivato, però deve voler rimanere al Torino, come quegli altri due hanno dimostrato di non volere. Insomma, è inutile girarci intorno. Mario, grazie. Se posso aggiungere una cosa? Sì, certo. La grandezza di questo Toro è che sa trasformare comunque i giocatori in grandi giocatori. Maxi Lopez faceva la riserva nel Chievo, è stato uno dei protagonisti di questa stagione. Sì. Quindi qualsiasi cosa succeda, se rimane questo impianto, questa struttura, questa serietà di progetto, i giocatori li fa il Toro, e non sono i giocatori che fanno grande il Toro, è il Toro che può fare grandi giocatori. Sono d'accordo, l'abbiamo detto molte volte anche con Pierluigi. Sì, sì, ma no, ma nel mercato di oggi, non essendo... ma c'è anche Pardo. Sì. Sono qui, sono in versione... In versione minimalista, no, volevo dire che insomma i giocatori bisogna saperli vendere. Io credo che nessuna squadra oggi, soprattutto per quella che è la dimensione del calcio italiano, può prescindere dall'idea di vendere, e la differenza sul mercato la fai proprio vendendo bene, e il Torino l'ha dimostrato quest'anno. Poi il presidente si è beccato 2-3 mesi di hashtag Cairo Braccino, però mi sembra che alla fine i risultati vanno veramente alla grande, e io non so se venderà qualcuno, ma se li dovesse vendere con la stessa efficienza delle cessioni dell'anno scorso, giocatori che vanno fuori e che perdono quel tipo di magia che avevano invece al Torino, alla fine avrà avuto ragione lui. Poi è ovvio che Darmiani in questo momento è un simbolo, ragazzo di prospettiva, però bisogna saper vendere. Ma poi vi dirò che per noi la cosa importante per Luigi non è tanto che il giocatore che noi vendiamo perda la magia, ma quanto come reinvesti quello, certo, che hai ricavato dalla vendita del giocatore. Perché io non è che noi siamo contenti di vedere Cercio, Immobile che fanno meno bene di quanto non facessero, genere. Però per noi l'importante è aver reinvestito il ricavato di Cercio, Immobile, in Quagliarella, che sta facendo altrettanto bene se non meglio, in Bruno Peris, in Maximovic, in Benassi, in Martinez, eccetera eccetera. Cioè, questo è per noi molto più rilevante che non che succede a loro. Insomma, poi io ai giocatori miei sono affezionato, quindi gli auguro veramente il meglio possibile, però quello che conta è come noi reinvestiamo il ricavato. Quanto conta Ventura, Pierluigi? No, conta moltissimo Ventura, però io non vorrei, adesso non so se abbiamo il traffico, non vorrei evadere l'argomento che comunque lo affrontiamo. Se abbiamo tempo parliamo dopo di bombe carta e di assalti ai pullman. Ventura conta tantissimo, Ventura e Cairo sono una coppia straordinaria, dai. Cioè, il Torino sta facendo cose eccellenti, le sta facendo con una continuità nelle stagioni. Adesso poi sembra captatio benevolenze, però è evidentissimo. Ventura è riuscito a resuscitare un'anima, una passione per il Torino di un certo tipo. La squadra gioca quasi sempre da Toro, insomma, assume anche qualche punto in meno in classifica, perché nelle prime giornate comunque ha buttato via delle occasioni per la colpa sui calci di rigore, però quelli sono punti buttati via. In Europa ha fatto molto meglio di quello che si poteva immaginare, con un'impresa e mezzo, quella riuscita col Bilbao e quella quasi riuscita con lo Zenit. Quindi no, Ventura conta tantissimo. Non so se abbiamo il traffico, però poi abbiamo il traffico, poi rubiamo ancora un attimo al presidente per chiudere quel discorso, che non si può evadere. Strade, proprio lui! Tutti convocati. Mongi, crocchetti e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Tutti convocati. Guarda, cosa ti interessa sapere dal presidente del Torino? Mi interessa sapere se Torino e Juve si metteranno a lavorare insieme per quello che possono fare, che secondo me, ripeto, non è molto, perché la grande responsabilità ce l'hanno le istituzioni. Le società possono avere un ruolo di testimonianza, un ruolo di sensibilizzazione, però insomma qualcosa bisogna fare, Presidente. Io credo che le immagini di ieri offendano l'intelligenza, la passione di tutta il 99% della tifoseria del Torino e della tifoseria della Juve. Adesso poi aspettiamo che i magistrati ci dicano esattamente quello che è successo, però siamo sicuri che qualcosa di brutto è successo, non ci sono dubbi. Ma non c'è dubbio che le cose non debbano andare in quel modo in cui sono andate ieri, o anche come sono andate in altre occasioni, perché io ricordo sempre che sono cose che ti rimangono e ti segnano un pochino, nel senso che ti danno fastidio e amareggiano. Mi ricordo in un derby a Torino, allo Juventus Stadium, in cui vidi uno striscione che dileggiava Superga, che prendeva in giro Superga, che era veramente una cosa terribile. Per cui dico, non è che ieri comincia tutto, qui abbiamo una serie di cose che purtroppo dovrebbero essere cancellate con un colpo di spugna, volendolo tutti, ma non dicendo chi è più bravo o meno bravo, no? Perché nel senso di fare qualcosa insieme, ci sono anche gli striscioni sull'Aisel, Presidente, ci sono gli striscioni su Paparelli, ci sono gli striscioni su De Falchi, sull'Aisel, ci sono gli striscioni su Pessotto, ci sono chiaramente non amare quella squadra leggendaria che è stato il grande Torino. Io quello che vorrei capire, Pallotta pochi giorni fa ha fatto capire che lui si sente impotente di fronte a certe frange, è una sensazione condivisa? Vi sentite un po' lasciati soli dalle istituzioni? Ma io dico, anche Pallotta, secondo me, comunque sia, sicuramente non si è ingraziato queste frange, perché quando li chiami in quel modo, secondo me comunque sia, anche tu hai un atteggiamento un po' violento. Secondo me io credo che da parte di chi dirige, da parte dei dirigenti sportivi italiani, ci debba essere. Io vedo tanti tweet che sono veramente a volte delle cose abbastanza imbarazzanti, considerando che li scrivono dei dirigenti di società di calcio o altro. Per cui secondo me anche i dirigenti devono anche un pochino fare cultura, insegnare un pochino, trasmettere degli esempi positivi e dei comportamenti positivi. Sì, no? Però mi è piaciuta molto, Presidente, per tornare alla domanda che ha fatto Pardo, cioè se è possibile che Torino e Juventus facciano qualcosa insieme da questo punto di vista. Devo dire che ho letto la sua intervista di oggi su Corriere della Sera e mi è piaciuta molto l'ultima frase, cioè alla vigilia dell'andata il Presidente Agnelli ha detto lei aveva sfottuto il Toro dicendo che non segnavamo da 12 anni. Non mi sono certo offeso, anche perché aveva ragione. Anzi, mi ha portato fortuna. Abbiamo segnato 3 volte eppure vinto il derby. Cioè, esatto. Si potrebbe anche giusto, dover fare dell'ironia, no? Ma questo è lo spirito giusto, sicuramente. Sì, ma secondo me, ma devo dire che lui mi ha giustamente sfottuto e io peraltro non potevo dire nulla e ho abbozzato. Poi dopodiché adesso non è che lo sfotto io, perché tutto sommato non c'è neanche motivo di farlo, perché insomma abbiamo vinto un derby dopo 20 anni, quindi tutto sommato dobbiamo vincere di derby, no? Prima di cominciare a sfottere. Però certamente è simpatico che adesso io possa dire che Agnelli porta fortuna. Questo fa parte, no, io però quello che vorrei veramente, mi rendo conto che forse siamo dei sognatori, è che faceste qualcosa insieme. C'è un museo dedicato alle vittime di Superga e alle vittime dell'Aisel, perché una delle clamorose e terribili combinazioni del destino di queste due società gloriose è che tutte e due hanno vissuto una tragedia assurda, dolorosissima. C'è un museo dedicato alla memoria di tutte queste gente. In più siete nella condizione, Juve e Torino, in questo momento, anche dal punto di vista dei risultati sportivi, siete in una condizione ideale per poter provare a fare un certo tipo di iniziative. Poi è chiaro che la differenza, io lo dico, la fanno le istituzioni, perché poi sono le istituzioni che devono assicurare l'ordine pubblico. Da questo punto di vista le società non possono fare molto, però sarebbe bello, secondo me, se all'indomani di questa brutta pagina ci fosse la possibilità di fare qualcosa anche di simbolico, perché insomma c'è la possibilità, Presidente. Non può finire così, come diceva Claudio Mendola nel film Ultra. Diciamo che dal mio punto di vista io sono sempre disponibile a trovare delle forme che in qualche modo trovino e mettano in piedi delle collaborazioni. Si è fatto per esempio il derby dei giocatori del passato, e fu un'occasione qualche anno fa, diciamo, per raccogliere fondi per la SLA, e quella fu un'occasione positiva. certo devono essere, come dire, ripetute, e non basta una cosa ogni tanto, no? Ci vorrebbe proprio un cambiamento di mentalità. Non è facile, però sicuramente si deve lavorare perché allo stadio ci si possa andare con tranquillità, serenità, ci possano andare le famiglie con i bambini a divertirsi, perché questo è il posto giusto per divertirsi. Grazie Presidente. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Pierluigi, abbiamo ancora un paio di minuti con te. Prima del GR, David, provincia di Venezia. Buongiorno, grazie. Dica. Per essere convocato. Mi stavo ascoltando e mi faceva una domanda: ma è così difficile togliere gli striscioni, le bandiere ed obbligare la gente a star seduta anche in curva in Italia? Non è così facile. Non è così facile, io credo. Non è così. Io sono per, l'ho detto molte volte, sono per il tifo disorganizzato, se no non mi piacciono le organizzazioni, però è una questione di gusti personali. Non credo sia così semplice cambiare delle culture che sono radicate. Probabilmente a quel punto, Pier, si potrebbe arrivare modificando gli stadi, cioè facendone di nuovi, sì, di diversi, ma no? Ma, però ti ripeto, il punto fondamentale è colpire i responsabili. Cioè, sì. Non colpire a casaccio come succede quando chiudono le curve, ma colpire i responsabili. E se siamo capaci, se lo Stato è capace di farlo, lo deve fare. Se non è capace, allora è molto triste, perché vuol dire, come diceva Crosetti, che siamo stati capaci come paese di battere il terrorismo, ma non di risolvere questo problema. Tutto qua. Poi, dopo, chiaramente subito dopo, quando hai bonificato, allora fai come in Inghilterra, degli stadi che siano più semplici, monitorati meglio, e questa cosa qui sicuramente aiutano, ma non è sicuramente lo Juventus Stadium da questo punto di vista è un modello, nel senso che è uno stadio nel quale comunque ti senti più vigilato, più controllato, e quindi questo è un deterrente. Però anche allo Juventus Stadium comunque qualche episodio vandalico è avvenuto in passato, per cui insomma non è che basti questo a risolvere. Quello, l'elemento fondamentale è la certezza del diritto. La certezza del diritto è sapere che se tu ti comporti bene nessuno ti romperà mai le scatole. Se ti comporti male paghi. È molto semplice. Se io vado in giro per Piazza del Popolo a Roma o Piazza del Duomo a Milano con una bomba carta o anche con un fumogeno, il primo quarto d'ora, ieri abbiamo dovuto fare la telecronaca del lancio di fumogeni da un settore all'altro. Per questo ti dico che poi alla fine stare lì a chiedermi chi ha tirato il primo fumogeno, non lo so chi ha tirato il primo fumogeno, però si tiravano i fumogeni da un settore all'altro, ma è normale? No, ma è civile? Non lo è, però se rimaniamo sempre sul punto della responsabilità individuale e non di gruppo collettivo. Assolutamente. E da questo punto di vista un sistema di monitoraggio all'interno di uno stadio può essere comunque, oltre che un deterrente, anche un modo per arrivare ad una responsabilità individuale. Quello che succede dopo è un passo ulteriore e forse è il più difficile. Pasquale, provincia di Foggia. Quando, buon pomeriggio. Dica. Sono Pasquale, chiamo da Gargano. Sì. Ho due domande da fare. Sì. Una gliela voglio fare al presidente del Torino. Che adesso non c'è più, gliela facciamo in differita. Dica. Voglio chiedere al presidente del Torino, visto la partita che ha fatto contro la Juventus, può essere una squadra che può andare in Europa League tra le prime? E poi la seconda la voglio fare sul Milan. Il Milan nelle ultime sei partite che sono rimaste, a partire dalla partita di contro il Genoa di mercoledì sera, può ancora sperare Milan può sperare solo di salvare la faccia, Pierluigi, può sperare solo di salvare la faccia. Il Torino invece può sperarci sul serio nell'Europa League. Sì, chi è che può sperare solo di salvare la faccia, scusami? Il Milan secondo me no. Ci sono troppe squadre davanti e soprattutto mi sembra che l'inversione di tendenza sia talmente clamorosa che mi sembra francamente molto difficile. L'Inter è tornata in corsa, anche qui dici come cambiate idea voi giornalisti, non è che cambiamo idea, è che la Fiorentina perde tre partite consecutive di cui in casa con Verona e Cagliari, chiaro che tutto si sconvolge, così come il Napoli tre giornate fa era a meno 9 della Roma, adesso è a meno 2 dalla zona Champions e a meno 3 dal secondo posto, cioè stanno succedendo delle cose molto interessanti in questo campionato, piuttosto sorprendenti, imprevedibili, che lo rendono incerto al di là della lotta per il titolo. La lotta per l'Europa è molto divertente, è molto incerta, quindi è tutto ancora da scrivere. Il Milan mi sembra però onestamente fuori gioco. Chi è stasera? Stasera chiaramente faremo un'ora sugli ultra e cercheremo di capire, sì, che dobbiamo fare. Quindi abbiamo Torino chiaramente straaccesa, dovremmo avere un'intervista al presidente D'Avecchio. Abbiamo Mughini in studio, abbiamo Zambrotta, abbiamo Cabrini, abbiamo Scanzi, abbiamo De Bellis, abbiamo Luca Di Bartolomei, il figlio di Diego Silva Di Bartolomei, abbiamo Guido De Angelis della Lazio, abbiamo Raffaele Auriemma, Melissa Satta, Fannine Geisha, parleremo anche di Balotelli a un certo punto, abbiamo tre ore di trasmissione, quindi ci cercheremo di capire che è successo. Quanti divani ti servono? Tanti, però siamo pieni di divani, siamo... I divani non mancano. Non posso pubblicità, ok, basta. Siamo... Ciao Pierino, ci sentiamo domani. Ciao. Ci fermiamo per il giornale radio, ma poi siamo di nuovo qui. Parleremo anche di Milan, per capire chi, come, quando, cosa è successo su quel pullman e che succede adesso in ritiro. E magari pure se Mister B è stato ricevuto a Palazzo. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua, primo tempo. Tutti convocati. Digital Radio. Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio... è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Che dire? Arrieccici. Convocati. Bisogna che il ministro degli interni Alfano si interroghi, perché io so che lui sta cercando di porre rimedio a questi grossi problemi su quello che non è un tifo, ma quello che è una presenza destabilizzante, che non ha niente a che vedere con il vero tifo. Però è in ritardo, perché quando gli abbiamo detto, caro Alfano, applica la legge inglese, dai potere alla polizia nello stadio, fai come succede in Germania, fai come succede in altri paesi, e lui ha fatto orecchie da mercante. Ha parlato a lungo questa mattina il presidente della Laurentiis Radio Kiss, poi ve ne facciamo sentire un altro, difficile dargli torto. Intanto, ripeto, per evitare misunderstanding, quanto detto in apertura, ed è una notizia apparsa un'oretta e mezza fa, per prima sul sito di Repubblica, è possibile che la bomba carta che ha ferito ieri i tifosi Granata all'Olimpico durante Torino-Juventus non sia stata lanciata dai tifosi della Juventus, ma sia stata confezionata sul posto dagli stessi Granata poi rimasti feriti. È l'ipotesi che emerge dai filmati visionati dalla polizia. La relazione è stata consegnata al pubblico ministero Andrea Padalino, che ha aperto un'inchiesta. Questi i fatti al momento. Marco Como, buongiorno. Sì, buon dì, grazie per la convocazione. Volevo dire una cosa in merito a una mia vita a Manchester di un paio d'anni fa. Sono andato a vedere il Manchester col Sunderland e praticamente quando sono entrato allo stadio ho dichiarato di avere l'accendino e si dava problemi. La persona mi ha risposto: no, perché se fumi ti multo e se lo getti ti arresto. Sì. L'altra cosa incredibile è che noi praticamente, a parte il prezzo del biglietto 44 stelline il stazionello, noi eravamo praticamente la penultima fila. Dentro di noi si è alzato un signore in piedi, io ho visto lo steward che piano piano saliva i gradini dello Stratford, è arrivato e a un certo punto ha detto: signore, per favore si sieda, perché sennò esce dallo stadio. Questa è una differenza. Poi non è tutto oro quel che luccica, perché anche in Inghilterra ultimamente sono tornati a menarsi. Però questo ruolo, sì, forse non hanno nemmeno mai smesso, hanno semplicemente spostato il campo di battaglia, ma questo accade anche in Italia. Poi bisogna vedere se c'è lo stesso rapporto che c'è tra gli steward negli stadi italiani e gli steward negli stadi inglesi. Probabilmente negli stadi italiani gli steward sono fischiati oppure presi in giro anche loro, oppure insultati nello stesso modo. Io ho visto queste persone salire piano piano, era l'ultimo posto dell'ultimo anello dello stadio. Pensa lì, piano piano ha detto: per favore, sit down. Poi bisogna capire se ci piace un clima di quel tipo all'interno di uno stadio, cioè come per vedere uno spettacolo, cinema, teatro, tennis, quello che concerto, fate pure. Noi siamo abituati a vivere il calcio in maniera diversa e in maniera deteriore, lo ammetto. Vanno dette due cose. In Inghilterra hanno risolto i problemi all'interno degli stadi, però anche in Italia non è che all'interno degli stadi, diciamoci la verità, succeda poi un granché, come capitava negli anni 80-90, scusatemi se ritorno spesso su questo tema, però sono stato testimone oculare, c'era all'interno dello stadio rituale, per cui a un certo punto partivano gli ultra da una curva, si facevano tutto il giro, andavano un'altra curva a rubare gli striscioni, poi si scazzottavano, poi interveniva la polizia. Queste scene all'interno degli stadi italiani, che sono dei porcini, non, per fortuna non le vediamo più. Ci sono altri aspetti deteriori, comunque penso che ad un regime di quel tipo, come dice lei Marco, non si possa arrivare senza modificare la struttura dei nostri impianti. È inutile che ci giriamo intorno. Vi faccio sentire un altro passaggio del De Laurentiis pensiero, sì. Thatcher ha avuto il pugno di ferro, ha creato una legge, ma si è mossa il primo ministro. Qui i primi ministri non fanno nulla, fanno le belle statuine, e quindi non si riesce a capire questo paese dove si vada, dove vada. E questo è il paese dove c'è, ricordiamocelo, la mafia di Stato, la mafia capitale, l'andrangheta, la Sacra Corona Unita, la Camorra. Ma vogliamo scherzare? Questo è il bel paese? Ricordiamo. Vabbè, fanno lungo elenco, eh? E come alla fine abbiamo anche qualche problemino intorno al calcio. Claudio Roma, buongiorno. Salve. Salve, dica. No, io stavo sentendo la vostra trasmissione, sono appassionato di calcio, ma molto così, blandamente. Però sono anche un tifoso della Roma. E stavo preparando da mangiare, ho sentito il presidente del Torino parlare di un'azione del presidente della Roma, che non, però non ho ben capito quello che abbia detto. No, si stava semplicemente chiedendo al presidente del Torino se stava dalla parte di Pallotta oppure stava dalla parte di quelli che gli hanno dato del maiale, semplicemente questo. Ma è molto difficile che i presidenti italiani si schierino in maniera aperta da questo punto di vista. Nella maggior parte dei casi fanno finta di capire altro. E questo è un problema. Questo è oggettivamente un problema. Quindi era soltanto questo, Claudio, una domanda rivolta a Cairo. Certamente servirebbe un'azione un po' più decisa da parte dei presidenti nei confronti di, soprattutto di quei gruppi che, è inutile nasconderlo, fanno del tifo una professione sulla quale lucrano, e lucrano sulle spalle attaccati al collo come parassiti delle società. Maurizio Pavia, buongiorno. Grazie per la comunicazione. Ciao Carlo. Ciao. Allora, io volevo dire, ma se al posto di togliere dei soldi si tolgono dei punti alle società, le società, primo, interverrebbero più energicamente contro i tifosi che fanno certi gesti, e secondo, il tifoso non va a far bombe dietro, cioè non si producono più certi atti, perché comunque il tifoso poi dipende. Dice cavolo, alla fine dipende. Mi si è rivolta contro, vado a vedere una partita, faccio perdere un punto alla mia squadra. Dipende, però possiamo leggerla anche però possiamo leggerla anche in un'altra maniera. Beh, no? L'anno scorso si ricorda ti ricordi tutti quei provvedimenti, le curve chiuse, e ci sono i corazzisti e chiudiamo le curve. Vale quanto ho detto prima, cioè c'è chi fa il tifoso di mestiere, di professione, e potrebbe avere in questo caso un ulteriore strumento di potere o di pressione nei confronti di questi che gli pagano lo stipendio, no? Delle società che vengono vampirizzate da questi che fanno. Sono gruppi organizzati che fanno del tifo una professione, e quindi hanno tutti i loro merchandising, i biglietti dalle società, l'organizzazione delle trasferte, e poi all'interno delle curve i soliti traffici illeciti che esercitano in quella zona franca che è il loro territorio, perché questa è la realtà sulla quale bisognerebbe lavorare. Saluto e ringrazio Furio Fedele, inviato del Corriere dello Sport. Ciao Furio. Buongiorno, eccomi qua, buongiorno. Ti rubo un pensiero su questo e poi parliamo un attimo di Inzaghi, dell'indegno, mica indegno, di quanto è successo su quel pullman e di quanto succede in queste ore. Sì, vedo che si parla molto di quello che è successo ieri, però io che ho qualche anno più di voi sicuramente, mi ricordo che una delle tante piaghe di questo contraddittorio paese, non so se vi ricordate, erano i sequestri di persona negli anni 70-80, un flagello che ha fatto tante vittime, che ha creato tanti dolori. Sai come l'hanno risolto? Tu non te lo ricordi, te lo ricordo io. Qualcosa hanno che ricordo stabilito, un po' sì. Ecco, ma come l'hanno risolto? Hanno stabilito che anche quello che andava a comprare la brioche per il malcapitato la mattina si prendeva l'ergastolo. Sì. A tutti l'ergastolo, ma l'ergastolo quello non vero. L'ergastolo, ecco. Da quanto tempo non senti più parlare di sequestri di persone? Si sono un po' passate di moda in effetti. Esatto, fra l'altro io ti posso garantire che era veramente una piaga. Ci sono stati morti, gente che è inutile adesso ricordare. Perché è stata stabilita una pena severa e congrua, e la pena era applicata in tutta la sua interezza. Anche se tu andavi a comprare la brioche, eri il telefonista, passavi di lì per caso, adesso esagero, hai capito come si fa? Certamente. Quindi stabilisci la pena e la metti in pratica con la certezza della pena, perché le leggi ci sono, ma non c'è la certezza della pena. Cioè, io non è che ho studiato molto in vita mia, però con queste due cose secondo me risolvi tutti i problemi delinquenziali di questo paese. Certo, anche perché io continuo a ripetere, l'ho detto all'inizio, che la responsabilità è individuale, non può essere collettiva o diffusa o di nessun'altra ragione. Se vado giù per strada e tiro sotto uno adesso fuori nella vostra strada, non è che vengono a chiedere qualcosa a voi. C'è purtroppo il malcapitato, la vittima, e c'è l'investitore, e viene circoscritto, la cosiddetta scena del crimine viene circoscritta. È inutile andare a scomodare tante cose, ci vogliono le leggi, ci vogliono le pene, ci vogliono le sentenze e soprattutto ci vuole la certezza della pena, e sparisce qualsiasi cosa. Quindi non ha torto De Laurentiis che abbiamo sentito, il De Laurentiis che abbiamo sentito oggi. Ma sai, ti ripeto, non so, un'altra cosa, guarda, tanto per dirti, e visto che, viva Dio, sono diminuiti notevolmente i ragazzi vittime delle famosi stragi del sabato sera, che cosa è successo? Ti tolgono la patente per 2, 3, 4 anni. Allora il buon senso cosa dice? Uno astemio lo trovi, o uno che non beve, si sale in 5, quello astemio guida, e gli altri poi bevono. Cioè, ti ripeto, non lo so, mi sembra così lapalissiano, e così, certo che ci vuole la certezza della pena, certo che devi andare a colpire anche, dicevi tu, dei poteri forti all'interno delle curve, dello stadio, eccetera. Però ci vuole la certezza della pena, sai, se tu sai che ti prendi, adesso se tu entri in una banca con una fermacarte, ti danno 12 anni, anche se non ci sono soldi, ci siamo accorti anche di questo, che per fortuna anche qui, vuoi per la sicurezza delle banche, vuoi perché non ci sono più soldi, vuoi perché ti becchi 12 anni, anche se passi lì e vieni fotografato da una telecamera, abbiamo finito anche con questo problema. È molto semplice, cioè non lo so, io sai, non è che sono... Sto facendo degli esempi che poi sono anche caratterizzati dalla realtà dei fatti, no? Basta leggere le cronache dei giornali, succede tutto. Come ad esempio potremmo allargare i discorsi alla violenza sulle donne, al fatto di monitorare certi individui. Ci sono ormai più telecamere che alberi, lì basta prenderli. Non è così difficile identificarli, tanto che li vedi in faccia 10 minuti dopo su ogni tipo di sito internet, ogni tipo di filmato amatoriale. Guarda, quindi... se vuoi ti racconto un altro aneddoto, se mi dai ancora un secondo. Nel 2003, finale di Manchester di Champions League, circa un mese prima della finale, Scotland Yard, attraverso la polizia italiana, chiamò i capi ultras di Milan e Juventus e ha detto: guardate, quando siete su all'Old Trafford, anche uno starnuto fuori posto, vi sbattiamo in galera, dopo 15 giorni vi chiediamo le generalità. Che cos'è successo in quella partita? Vero. Sì. Gran bello spettacolo di tifo. Gran bello spettacolo di tifo. Da tutti i punti di vista c'erano 55.000 italiani. Certo. Equamente divisi e sicuramente non equamente amici. Quindi, come vedi, insomma. Ascolta, non sono amici neanche sul pullman del Milan, però. No, direi di no. Anzi, La notizia di oggi è che oltre che a piovere e far freddo, questa non mi sembra una notizia esclusiva, comunque si parlava ancora di un possibile esonero del mio amico Inzaghi, che in questo momento, anche per questioni ovviamente di opportunità, è sulla panchina del Milan. Non so se lo sarà ancora mercoledì sera, è prevista fra parentesi una contestazione, ma assolutamente civile, tanto sono talmente pochi ormai gli spettatori del Milan che riconosci anche le voci, guarda, puoi chiamarli per nome, e quindi niente, al peggio non c'è mai fine, sarà uno spettacolo abbastanza desolante, giustamente sugli spalti, temo che lo sia anche in campo, visto che la squadra è demotivata e anche particolarmente... Mi sembra anche abbastanza frantumata, esatto, mi sembra bravo, anche abbastanza frantumata. La rima, io la cercavo disperatamente, demotivata e frantumata sotto tutti i punti. Ascolta, chi ti aspetti fuori dalla squadra, tanto per chiarire? Ma sai, a questo punto, se potessero, ci sarebbero in tanti a non giocare perché non c'è più nulla, sei giornate dalla fine, grazie a Dio rischi di non retrocedere, almeno quello, questo pericolo non c'è, però è una squadra svuotata, come si è visto a Friuli di Udine, ma si era visto, e qui c'è secondo me la colpevolezza di Inzaghi e della società, se ricordi anche il 28 febbraio ultimo scorso, Chievo-Milan 0-0, che se possibile fu una partita ancora peggiore rispetto a quella contro l'Udinese, perché a parte ovviamente che il buon Marana aveva organizzato una difesa a oltranza, anche perché pretendeva giustamente di conquistare un punto a quei tempi preziosissimo, ma dove il Milan non fece meno del Chievo, e vi posso garantire uno spettacolo indecoroso per il calcio e per la maglia del Milan. Ricordo quella partita. Il fatto è che la mia sensazione è che molto dipenda anche dall'incertezza che c'è intorno alla società. I giocatori, che sono spesso dei figli di buona donna, sanno benissimo che Inzaghi non resterà, e quindi il professore non li giudicherà per l'anno venturo. Di conseguenza è quasi fatale che, appunto, in un ambiente un po' di carogna come quello del calcio finisca per spaccarsi tutto, quindi sarà qualche pretoriano che rimane dalla parte di Pippo, se non altro per affetto, e gli altri che si danno la macchia. Ma guarda, noi siamo sempre ammalati di esterofili anche per il calcio, a parte che sotto finaliste in Europa ci sono 3 italiane e 0 inglesi, no? Quindi adesso non so se questo avete mai sfiorato, ma penso di sì, questo argomento che è abbastanza bizzarro, sì, sì. Visto che siamo sempre i parenti poveri del calcio, non mi sembra, almeno da questo punto di vista. Però siccome tutti vanno a parlare della Premier League, di Barcellona e Real Madrid, il vero modello da seguire secondo me, e tu sai che la mia colorazione insomma di cuore non è certo bianco-nera, è proprio la Juventus, che col modello Juve nel giro di pochi anni, oltre a devastare i campionati italiani in senso positivo, visto che vince lo scudetto praticamente alla fine del girone d'andata, riesce anche a imporsi a livello europeo. E tu pensa, tanto per far capire anche ai nostri baldi giovani milanisti e interisti come funziona la vita, che quando tu firmi il contratto con la Juve, oltre a venirti il crampo con la mano perché è praticamente come un volume della enciclopedia Trecani, c'è anche una clausola che prevede che, a meno che la Juve non giochi ovviamente a Milano, o a meno di manifestazioni ufficiali della Juve a Milano, è severamente vietato per i tesserati venire a Milano di sera, la tentacolare Milano, la Milano da bere, perché evidentemente sai quando arrivi ma non sai quando riparti. Capita a tutti, insomma, anche perché la città è particolarmente, certo, particolarmente vivace. Questo perché? Perché ci vogliono delle peculiarità a molti sconosciuti: puntualità, precisione, disciplina, professionalità, attenzione, prudenza, capisci? Alla Juve non gli mettono nemmeno il dubbio, dice tu non ti presenti. È scritto sul contratto, altrimenti se vai parliamo di quattrini. Perché i signori vai a toccare il borsellino, bravo, che è l'unica parte del corpo che sensibile, hanno sensibile. E poi magari la domenica successiva si guardano la partita in tribuna, magari gli fanno pagare anche il biglietto, che farebbero bene. Grazie Furio, a voi, un abbraccio, ciao, presto, Furio Vedere. Non risulta, intanto, così sempre per la cronaca, che Mr. B sia stato ancora ricevuto a Palazzo, ma tanto nei prossimi giorni Marco Berinazzo che pure rima, ci illustrerà tutto. Lorenzo Udine, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Dica. Niente, grazie per la convocazione. Io volevo chiedervi qualcosa forse di più sostanziale rispetto alla violenza negli stadi. Mm. Ma perché se nelle curve ci sono i seggiolini queste persone stanno in piedi? Io le ho detto, è una provocazione la mia. Io mi ricordo un'esperienza che ho avuto all'Highbury Park, glorioso Highbury Park, in un Arsenal-Juventus di 10 anni fa, in cui stavo nella curva che teoricamente noi oggi definiremmo ospite. Ebbene, all'interno di quello stadio, dietro di me c'era una persona un po' esagitata, non tifoso della Juventus, era contro sostanzialmente l'Arsenal. Io ricordo ancora quell'aneddoto perché per ben 3 volte i poliziotti all'interno dello stadio gli chiesero cortesemente di starsene seduto, alla quarta lo preso e lo portarlo tranquillamente fuori. Io voglio partire da questo ragionamento, mi perdoni, ma davvero di base, perché se noi non cominciamo a definire un minimo, una minima infrazione che queste persone fanno, e non è tanto la bomba carta, perché ovviamente ci siamo agli eccessi del tipo più demenziale, ma se non cominciamo a intendere questo modo di stare allo stadio là, seduti, tranquilli, e partiamo da un normale rispetto dell'ordine pubblico, noi non ne verremo mai fuori. Ma infatti non io dubito che se ne possa venire fuori, l'ho detto prima, nei nostri impianti, semplicemente dicendo state tutti seduti, perché è una questione di strutture, di abitudini, di che vanno modificate, tutte queste cose, però bisogna partire da un contesto che ti permetta l'applicazione di un modo di vivere all'interno dello stadio di questo tipo, cosa che in questo momento manca ed è una delle cose che servono. Poi sinceramente non mi sembra tanto la questione se stai in piedi o stai seduto in curva piuttosto che da un'altra parte. Il problema è monitorare quanto succede in quei settori, come ad esempio abbiamo detto molte volte succede in uno stadio contemporaneo come quello della Juventus. È stata un'altra domenica molto brutta per il calcio italiano, ci sono stati episodi assolutamente inaccettabili, lo ripetiamo da tempo e speriamo che questa sia la volta buona. Bisogna fare un salto di qualità nel sistema di accertamento delle responsabilità, in quello delle sanzioni, ha detto il presidente della Lega di Serie A Maurizio Beretta. Ormai è evidente che in questi casi non funziona la responsabilità oggettiva, serve invece individuare i singoli responsabili e sanzionarli in maniera pesante sul piano sportivo. Beh, piano sportivo, anche qualcosa di più che sul piano sportivo. Non riesco a parlare con Paolo, vero? No, perché dobbiamo chiudere il programma. Però Paolo da Padova, se vuole, domani sarà primo della lista. Tanto siamo qui, tutti convocati, domani dopo il giro delle 14. Io ringrazio Alessandro Marco Tulli, professore, in redazione insieme a Daniele Bonamici e Gianmarco Ferronati in regia. Ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.